cielo in bordo, già sparito in la procella, che ribella il naufragio minacciò. Già sparito in la procella, che ribella, che ribella il naufragio minacciò. Non temer, sei giunto in porto, non temer, sei giunto in porto, già sparita è la procella, che rubella, che rubella, in naufragio minacciò. Già sparita è la procella, che rubella, in naufragio minacciò. La procella che in naufragio minacciò. Resti a sordo, e mi orgoglio che quel soglio, che quel soglio di calcamar folle tentò. Ora in quella resti a sordo, e mi orgoglio che quel soglio, che quel soglio di calcar folle tentò, di calcar folle tentò. Già sparita la procella, che rubella il naufragio minacciò. Già sparita la procella, che rubella il naufragio minacciò. Non temer, sei giunto in porto, non temer, sei giunto in porto. Già sparita è la procella, che rubella il naufragio minacciò. Già sparita è la procella, che rubella, il naufragio minacciò. La procella che il naufragio minacciò.